Benvenuti su Monarchia Interiore, un podcast dove saranno diffuse e possibilmente preservate informazioni e conoscenze riguardanti la libertà. Io sono Francesco Sani, il mio sito è monarchiainteriore.com. Oggi è il 5 febbraio 2026. Questo è l'episodio 1, ma c'è già un episodio precedente, l'episodio 0, e tra l'altro ho scoperto che anche lo 0 ha anche l'ordinale, quindi sarebbe lo zerismo. Perciò siamo legittimati a dire che questo è il primo, effettivamente, il primo episodio. E qui con me, 12 ore avanti, abbiamo sempre la nostra Giulia Rodighiero. Quindi Giulia, benvenuta e bentornata. Ciao Francesco e ciao a tutti. L'altra volta parlavamo di questo podcast che ha un nuovo formato. Tu l'avevi cominciato ad accennare che avevamo fatto traduzioni in passato, per la maggior parte traduzioni. E infatti il nuovo formato riguarda il fatto che sarà in italiano, a differenza del lavoro che abbiamo svolto in precedenza. Un'altra cosa che volevo dire, e non ho detto l'altra volta, parlando del motivo per cui ho scelto di iniziare in questo periodo, lì ho detto il motivo simbolico più importante, che riguardava l'8, il numero 8, ma c'è anche un'altra coincidenza, se vogliamo, che in questo periodo il 2 febbraio è stata la ricorrenza della Candelora, ma sarebbe nella tradizione celtica si chiama Imbolc, poi è stato successivamente cristianizzato, come spesso accade per questo genere di ricorrenze, con la presentazione di Gesù al Tempio, ma rappresenta il punto di mezzo tra il punto mediano tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera, quindi era la speranza, diciamo, di superare l'inverno e quindi di superare un periodo di privazioni per arrivare poi al periodo della rinascita, quello della primavera. Per questo era una ricorrenza considerata importante e quindi è un altro degli aspetti simbolici anche di questo periodo e appunto del periodo in cui ho deciso di iniziare. C'era anche un'altra cosa da dire su cosa non tratterà questo programma. Noi abbiamo spiegato l'altra volta molte cose di cui non ci occuperemo, però ne volevo precisarne anche un'altra che non riguarderà la ricerca della felicità, per così dire. Avevamo detto che non avrebbe riguardato l'ambito del life coach e crescita personale e cose simili. E volevo dire anche, oltre a questo, anche l'idea che queste informazioni potranno, o conoscenze, o comunque quello di cui tratteremo qui, farà essere anche le persone più felici, per così dire. Perché in realtà, come tra l'altro vedremo anche già da oggi, e come anche detto poi nell'episodio precedente, queste informazioni sì, hanno il potenziale di poterci liberare dalla nostra condizione, ma non ci renderanno probabilmente più felici, ecco. Almeno non a corto termine. Sì, esatto. Magari a lungo termine, sì, ma... Esatto, sì, a lungo termine, chissà. Però sì, non riguardano l'essere felici, non riguardano la felicità, perché a volte in ambiti di un tipo un po' particolare si sente parlare di quest'idea del cose che ci faranno star bene o essere felici, e quindi volevo precisare anche questo. E anche un'errata corrige di quello che ho detto l'altra volta per quanto riguarda l'argomento che avremmo trattato nell'episodio successivo, cioè oggi. Non saranno gli ostacoli all'apprendimento, ma oggi parleremo della condizione umana. Ed ecco, cominciamo dicendo che la condizione in cui l'umanità si trova non è anche questa ben compresa. Quando diremo qual è, probabilmente saremo considerati esagerati, perché non abbiamo un'idea completamente chiara e veritiera di questo stato in cui ci troviamo, che è quello di schiavitù. La condizione umana è una condizione sotto schiavitù, che non è solo quello a cui pensiamo di solito nell'immaginario collettivo. Solitamente si pensa a quelli con la catena e la palla al piede, o costretti a lavorare nei campi di cotone come i neri negli Stati Uniti del Sud, o la tratta degli schiavi. E quindi, anche se la gente oggi magari sa che esistono ancora, ed infatti è così, condizioni uguali o molto simili nel mondo di servitù coatta o se non proprio schiavitù palese ed evidente. Penso magari, sì, in alcuni paesi del terzo mondo i bambini che lavorano, che fanno le scarpe e i palloni da calcio, o quelli che ancora nelle miniere di coltan in Africa, nel Congo. E quindi sì, alcuni si rendono conto che quella è effettivamente schiavitù, però manca poi la comprensione del fatto che in realtà tutti siamo sotto schiavitù. E questo, quando lo dici, a volte susciti anche reazioni di sdegno. E c'è anche chi poi si offende, chi magari poi dice che non ci rendiamo conto di quanto, come fai a dirlo, non vedi quanto siamo fortunati. E ci sono naturalmente modi diversi di tenere qualcuno in schiavitù e anche diversi gradi con cui questo viene fatto, non solo quelli evidenti, quelli palesi, ma anche quelli dissimulati. E ci ritorneremo su molte di queste cose, perché oggi anche questa è un'introduzione alla condizione umana, che poi dopo aprirà la strada per piegare tutto ciò che ne conseguirà. Però appunto volevo partire anche qui con chiarezza, dicendo qual è il nostro problema pressante, diciamo, attuale, la condizione sotto cui ci troviamo e sotto cui siamo stati per millenni, per tantissimo tempo, e che non siamo mai riusciti a scrollarci di dosso. Il problema che dobbiamo accettare e che tutti devono rendersi conto che esiste è che ci troviamo in una condizione di schiavitù, come hai detto tu, in un diverso grado della schiavitù in catene, però è sempre schiavitù. Ci sono forse alcuni esempi che potremmo fare, comunque sempre tenendo conto che poi avremo occasione di riparlarne abbondantemente, ma per esempio le risorse che produciamo o i frutti del nostro lavoro rimangono tutti a noi, oppure dobbiamo cederne una parte consistente, decisa arbitrariamente a priori da altri, per esempio. Quindi questo, delle risorse che ci vengono prese senza magari il nostro consenso, il fatto di non essere veramente proprietari di noi stessi, l'abbiamo visto nella storia recentissima, ma non solo di noi stessi, ma anche poi di altro tipo di proprietà che abbiamo. Siamo veramente proprietari al 100% delle nostre risorse, di quello che abbiamo acquisito, oppure no? E infatti no, non lo siamo. Possiamo subire ripercussioni negative o conseguenze negative anche se quello che facciamo non reca danno, è giusto e quindi non sarebbe, diciamo, una cosa sbagliata da fare? Sì, possiamo. Questo subiamo, possiamo subire dal punto di vista legale ripercussioni per quello che facciamo, anche se non danneggia nessuno. Per tutto questo, per tutti questi esempi, tutte queste cose che ho detto, c'è appunto una definizione che li riguarda e si chiama appunto schiavitù. Esatto. Sì, servitù coatta, o chiamiamola pure, possiamo trovare altri modi, ma gira e rigira. Si tratta del fatto di non essere proprietari di noi stessi e di non poter agire in libertà anche quando quello che facciamo non causa problemi, per così dire, ad altri. Ed è questo una cosa su cui bisognerà riflettere molto e una cosa di cui riparleremo nel corso del programma, senz'altro. Sì, di sicuro. E anche spiegheremo bene cosa c'è alla base, cosa porta a questa condizione, quale credenza praticamente causa questa condizione di schiavitù. È una credenza che hanno tutti e abbiamo avuto anche noi, ma comunque sì, ne riparleremo più avanti. Sarà importante, appunto, di parlare di credenza, quindi è qualcosa che c'è stata instillata nella mente, che è poi da dove parte tutto. Quindi è importante addentrarsi anche appunto nella mente, nella vedere le ragioni, capire la psicologia che c'è dietro, sarà fondamentale, le ragioni psicologiche. Quella è una delle chiavi più importanti per capire proprio perché stiamo permanendo in questa condizione. E un'altra cosa che vorrei dire è il fatto che bisogna anche capire poi quali sono le cose veramente importanti tra quelle magari che diciamo di volere. A volte non ci sono nemmeno cose importanti tra ciò che diciamo di volere, perlomeno non realmente. Perché sono stati instillati determinati valori, determinate idee che ci fanno credere che quello che diciamo di volere sia, o meglio, abbia un'importanza che magari poi in realtà non ha. E quindi veniamo deviati da quello che è veramente importante. Però forse in alcuni casi, a volte, tra le cose che diciamo di volere c'è appunto anche la libertà, la giustizia, più meno pace. Sì, esatto, pace, esatto, sì, più eguaglianze e meno diseguaglianze, anche su questo poi qui c'è da ce n'è da dire, ce n'è da discutere molto, e quindi sì, appunto, tra tutte queste cose c'è magari forse anche un po' la libertà, in qualsiasi modo la si intenda, però. E quindi è utile comprendere quali sono le più importanti tra queste cose, quali sono veramente, e capire che per ottenerle ci sono dei requisiti, non saranno ottenute automaticamente. Per ottenere determinati risultati e cambiare la nostra condizione ci saranno dei requisiti. Uno di questi, direi il principale, è la conoscenza, è l'acquisizione di conoscenze. Perché l'ignoranza è l'altra grande piaga che affligge l'umanità. La situazione in cui ci troviamo è quella di schiavitù ed è causata, uno dei fattori causali principali, il vero nemico secondo molti, e che mi trovano anche d'accordo fondamentalmente, è l'ignoranza. E qui c'è da fare una distinzione con un altro termine, che è quello di nescienza, che è importante fare, perché la nescienza, che è lo stato in cui ci siamo trovati fino in realtà a non molto tempo fa, ma è l'impossibilità di sapere proprio per mancanza o assenza di conoscenza. Praticamente non siamo impossibilitati a ottenerla, a ottenere conoscenza. L'ignoranza, invece, d'altro canto, è un atto di volontà, è un atto di pura volontà. Noi scegliamo di ignorare determinate cose che potrebbero invece risolvere la nostra condizione, farcela comprendere per poi compiere i necessari passi per risolverla. Esatto, vorrei solo sottolineare che è importante capire proprio che se non c'è conoscenza, se i requisiti, le informazioni necessarie a risolvere i problemi della condizione umana non vengono conosciuti e capiti, compresi e accettati, la manifestazione di tutte le cose che diciamo di volere sarà impossibile. Perché bisogna capire che non è che dobbiamo, che pensiamo una cosa e poi si manifesta magicamente, ma bisogna comprendere i requisiti necessari per far manifestare questa cosa nella realtà. Non so, secondo me questo è un passaggio importante che le persone devono capire, ma anche questo probabilmente è una cosa che ci ritorneremo in un episodio futuro. L'importanza della conoscenza perché questa conoscenza venga messa in atto e si trasformi in manifestazione. Sì, è vero, anche questo sarà fondamentale capire. Una cosa torno a dire, che il fatto che l'ignoranza, ricordiamoci che essendo un atto di volontà, non ci esime, non può essere usato come pretesto per esimere noi stessi dalla responsabilità personale che abbiamo una volta acquisite queste conoscenze necessarie di cui stiamo parlando. Finché siamo stati in uno stato di nescienza, potevamo dire di non essere responsabili per la condizione in cui ci troviamo, per essere sotto schiavitù, per essere schiavi fondamentalmente. Adesso non possiamo più dirlo. Sì, è vero che ancora non per tutti troppo sarà possibile acquisire conoscenze, però oggi per la maggior parte direi che potenzialmente sì. E quindi diciamo la gravità della nostra situazione è dovuta al fatto che adesso siamo volutamente ignoranti. Quindi è per questo che questa situazione, questo stato di cose è particolarmente grave. E riguardo alla responsabilità, il problema è che forse noi non la vogliamo nemmeno perché abbiamo paura. Questa è una delle nostre grandi paure, di assumerci responsabilità. Ma dobbiamo capire che la libertà richiede responsabilità personale totale. Ed è per questo che ne siamo spaventati. Noi siamo spaventati dalla libertà per questo motivo, perché abbiamo questa paura, oltre ad altre, che ci frena, che ci impedisce di conoscere la nostra situazione e di agire di conseguenza. Esatto, ed è per questo che ignoriamo, la maggior parte delle persone ignora, preferisce ignorare i motivi per cui siamo in questa condizione, anzi direi che la maggior parte delle persone, sì, come dicevamo anche prima, si ignora e nega che siamo per esempio in schiavitù. Dietro tutto questo c'è la paura della responsabilità personale, cioè abbiamo paura di essere liberi. E paura anche della conoscenza, perché in fondo sappiamo paura della conoscenza, sì, che una volta acquisita, sì, questa comporta una presa di responsabilità da parte nostra. Esatto, sì. Ed sì, è poi sì, anche la vera epidemia, no? La vera epidemia che colpisce il mondo, tra le altre, è quella è l'ignoranza. L'ignoranza, l'apatia e la paura. Poi anche di questo ne riparleremo. La paura è un concetto molto importante da comprendere, perché poi è alla base di tutta una serie di condizioni. E quindi è importante capire, sì, che questi sono i grandi problemi che ci affliggono e alcuni dei loro fattori causali. Se vuoi possiamo dire che l'ignoranza è il vero avversario, è il nostro vero avversario, e quindi la vera soluzione è la conoscenza. C'è una citazione di Socrate che diceva che l'unico bene è la conoscenza o il sapere, e l'unico male è l'ignoranza. C'è neanche una di Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti, che dice che se un popolo si aspetta di rimanere libero restando ignorante, si aspetta qualcosa che mai è stato e mai sarà. E credo che non ci sia, che sia una delle grandi verità che sono state dette. Sì, quindi vediamo come la conoscenza di questi requisiti per essere liberi esistevano già al tempo di Socrate e sono esistite nel corso della storia, e però abbiamo sempre deciso di ignorarle. Magari ci sono stati alcuni episodi nella storia che hanno provato a migliorare la situazione umana, ma alla fine siamo... Sì, non sono mai andati a siamo buon qui, fine. Non sono mai... Esatto, sì. Sempre state sviate, eccetera, quindi... Naturalmente la nescienza giocava un ruolo. Certo, ovviamente, sì. Prima direi che, come dicevamo in precedenza, oggi nella maggioranza dei casi, tranne per quanto riguarda certe situazioni, ma la maggioranza dei casi, non possiamo più usarla come pretesto. Scusa, no. Non si può usare a pretesto. Naturalmente non potremo conoscere tutto quello che c'è da conoscere. Nessuno di noi in una singola vita potrà mai avere una conoscenza totale del tutto. Nessuno di noi è Dio, e quindi questo non sarà possibile. Ma appunto per questo dovremo capire cosa è fondamentale apprendere, non solo per liberarci, ma anche riguardo quello che causa la distruzione della libertà, quello che distrugge la libertà, e quali sono le cause, i fattori causali che lo determinano. Per questo sarà di grande importanza comprendere a fondo la psicologia anche per poterlo capire, perché non a caso quella era forse la scienza sacra, potremmo dire, perché era proprio quella che faceva comprendere determinate dinamiche, comprendere appunto il comportamento umano e perché facciamo certe scelte, perché poi si manifestano determinate realtà. Quindi sì, gli aspetti psicologici sono senza dubbio cruciali. Bene, quindi direi che anche per oggi possiamo avviarci a concludere. La prossima volta parleremo effettivamente, inizieremo a parlare dell'apprendimento, degli ostacoli all'apprendimento. Quindi per oggi abbiamo finito. Grazie Giulia e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.